Benvenuti a questo, appunto, come vedete dal titolo, percorso estetico. Io onestamente sono tre settimane che cerco di capire precisamente di cosa Fede avrebbe parlato stasera, anche Fede probabilmente. E l'idea che mi sono fatto è che è appunto un percorso storico-estetico attraverso la storia di Milano, ripercorsa utilizzando come tappe ciò che le testimonianze che noi abbiamo della storia di Milano attraverso dipinti, attraverso edifici, attraverso, diciamo, ciò che della storia, del passaggio della storia a Milano è rimasto. Ciò che rimane della storia a Milano, come, diciamo, ci accorgeremo nel corso di questo percorso, non è frutto di una casualità. Ciò che noi andremo ad esplorare è il ruolo che ha avuto nella storia di Milano la sua precarietà dal punto di vista politico, giustamente, no? Quindi Milano è una città che ha una singolarità nel panorama sia italiano che europeo. È una città che raramente ha vissuto dei periodi prolungati di stabilità politica, come invece può essere successo a Firenze con i Medici, oppure a Ferrara con gli Este, o con altre città che probabilmente adesso non mi vengono in mente. E allo stesso tempo a questa precarietà si è accompagnata una centralità dal punto di vista politico, militare, economico, che ha fatto sì che, nonostante si siano succedute varie epoche, quindi ci sia stata una grande instabilità dal punto di vista politico in città, comunque il meglio delle arti, il meglio della tecnica, il meglio della scienza abbia sempre avuto modo di esprimersi a Milano. Tuttavia, se noi in una grande città italiana possiamo sempre risalire a quella che è stata la storia di ogni monumento, oppure conosciamo ogni passo, ogni dettaglio della vita di ogni grande personaggio che è passato per Milano, l'instabilità politica di Milano ha fatto sì che questi passaggi non sempre sono chiari, anzi, non sempre ci sono noti. I rari momenti in cui invece di Milano qualcosa rimane, casualmente corrispondono con quei monumenti, quei dipinti, che per noi rappresentano Milano, che rappresentano solamente in verità la punta di un iceberg di ciò che a Milano è veramente passato, e corrispondono a quei rari momenti di stabilità che ci sono stati nella storia. E quindi, cioè, tutto questo percorso storico-estetico starà a, diciamo, rappresentare come la precarietà possa essere una chiave di lettura per interpretare il passato, eventualmente poi, verso la fine, interrogandoci su cosa può questo concetto darci riguardo al presente. E basta, questa è la mia introduzione. L'idea era di fare una chiacchierata, quindi, cioè, se avete domande, interventi, ricordi, curiosità, eccetera, non esitate a interrompere l'unica persona che parlerà da qui in avanti, Fede. Bella. Sì, la tesi, appunto, che Milano è sempre stata grandiosa nella storia, ma nulla, nulla rimane di Milano, della sua storia. Quindi la città italiana più europea, perché effettivamente uno che nasce a Milano vede il resto d'Italia sempre come provinciale, ma si dimentica di essere comunque italiana, quindi di essere sempre stata, oltre in maniera economica, anche estetica, molto rilevante. Ho voluto iniziare con la piazza, col centro. Si dice sempre di partire dalle periferie. Io invece partirei dal centro, vale a dire dalla storia, per vedere non la periferia come periferia, ma vederla come territorio, che dovrebbe essere legata alla storia urbanistica della città. La piazza del Duomo è una piazza oggettivamente bella, ma è una piazza che sembra una piazza europea, vale a dire nulla dice della storia di Milano, che è sempre stata grandiosa, era una città nel basso medioevo tra le più sviluppate e prospere in maniera economica d'Europa, quindi del mondo antico. A cominciare col Duomo, cioè, per me, anche uno che non gli piace la storia dell'arte, che ha per sbaglio due o tre basi, riesce a ricostruire, andando a visitare una città italiana, bene o male, la sua storia. Non riesce invece a Milano. Il Duomo è magnifico, iniziò negli anni 60 del 300 e finì a fine 800, ma è assolutamente complesso come storia e nulla rimane. Mentre per esempio San Pietro, qualsiasi progetto, la linea raffaeliana di avere una croce latina, quella bramantesca, di avere una pianta centrale, tutto è documentato e tutto rimane. Del Duomo quasi nulla si sa, eppure tutti i più grandi artisti del tempo passarono per il Duomo. È così complesso che io non parlerei del Duomo di Milano, proprio perché è bellissimo, ma è l'emblema di Milano, che è una struttura che non è il gotico italiano. È, sembra di matrice d'Oltralpe, europea, francese, è gotica. Non è gotico italiano perché non ha non combacia col romanico, non ha quella sinergia bellissima che non la rende quel verticalismo che abbiamo di Notre Dame, per esempio, come qualsiasi altro esempio di Duomo in Italia. Però è più bello del gotico internazionale, è più bello del gotico francese. Finito l'universalismo cristiano, noi del gotico francese ci fa un po' quasi effetto il gargoyle, quel verticalismo coi contrafforti, a noi molto lontano. Il Duomo di Milano sembra invece armonico, sempre eterno, ed è anche più bello del gotico internazionale, perché il resto in Europa non ebbero quasi romanico, almeno nel nord, e non ebbero rinascimento, quindi perdurò il gotico internazionale. Togliendo il Duomo di Milano, che è molto complesso, partirei da cosa c'era prima, che è emblematico appunto di quanto nulla rimane di Milano. Vale a dire, prima del Duomo vi era un complesso cattedrale paleocristiano, che era nel mondo occidentale cristiano uno degli esempi più importanti. Qui fu battezzato Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, due dottori della Chiesa, emblematici per la storia del cristianesimo. Fino al 1850, nulla, almeno nell'Ottocento, nulla si sapeva di questo complesso paleocristiano. E questo è emblematico, perché io, se fossi Papa, piuttosto che mandare a Gerusalemme i fedeli, di cui non è rimasto quasi nulla della parte paleocristiana, se non la tomba di Pietro e la roccia del sepolcro, tutto è stato bruciato varie volte e rifatto nel basso Medioevo, manderei ad Aquileia, a Roma, a Milano, forse per fortuna non sono Papa, ma è assurdo, però è assurdo che a Milano è stato scoperto per caso la Milano paleocristiana. E questo già è un sintomo della sua precarietà, mentre a Roma qualsiasi struttura paleocristiana è sempre rimasta, è sempre stata mutata, ma ogni spostamento di colonna veniva documentato, per esempio dai Barberini, che pur distrussero molte cose, ma documentarono con acquarelli validi qualsiasi cambiamento delle chiese paleocristiane. Prima del Duomo si scoprì per caso da un ingegnere Bignami, facendo dei lavori, adesso non mi ricordo, di tubature, scoprì questi resti paleocristiani. Al posto del Duomo c'erano due chiese, una Santa Tecla e una Santa Maria Maggiore. Al posto del Duomo, Santa Tecla davanti. A Santa Maria Maggiore era affiancato il battistero di Santo Stefano alle Fonti, e davanti San Giovanni. Uno è rimasto solo la vasca di 3 metri nella zona della metro, e un altro si vede sotto al Duomo. In uno, nel numero 6, venne battezzato Ambrogio, in quello davanti Ambrogio battezzò Sant'Agostino. Milano pagana quasi nulla rimane. Eppure fu capitale dell'impero, prima di Ravenna, fino al 402, e quindi aveva le porte legate, tipo Porta Romana era diversa, aveva una strada porticata che dava verso la città eterna, Roma, aveva un anfiteatro che era secondo solo all'anfiteatro Flavio come grandezza, aveva un circo, cioè via circo, aveva un foro, e aveva un cardo decumano, che Milano è l'unica città in cui non si sa esattamente, si presume, dove sia l'incrocio. Ma di questo anfiteatro rimane qualcosa? Non si sono quasi iniziati ancora i lavori. Si è scoperto per caso, rifacendo la darsena, che era molto più esteso, o poteva ospitare 20.000 persone. La cosa emblematica, io ho iniziato questa tesi della precarietà di Milano perché quando... 2 o 3 anni fa iniziava a studiare un po' la Milano paleocristiana romana, chiedeva a tutti come mai è l'unico caso in Europa in cui si scava e non si trova neanche un capitello e un marmo. La risposta sarebbe che c'è una parte di vero e che Milano non ha a fianco del marmo, è sempre stato un forte sviluppo protocapitalistico-capitalistico e quindi c'era bisogno di materiale primo. Per cui San Lorenzo abbiamo davanti le colonne che non sappiamo se sono di un tempio o di una villa. San Lorenzo dentro era ricca, mosaicata, un esempio per l'architettura che si ispira a un cerchio di tutta Europa, ma tutti i mosaici dentro sono stati tolti, era simile a Ravenna. Quindi la risposta alla storia dell'arte a questa precarietà sarebbe la mancanza di materia prima di fronte a un'esigenza economica. Per me è solo in parte vera, dopo poi cambiamo. Vuoi fare il giro della piazza? O sì, vuoi... anche il giro della piazza. Okay. Verso Aringario o l'altro? Vabbè, intanto solo questa piazza è bellissima, ma sembra appunto una piazza europea. Vale a dire, nulla dice della Milano medievale, che era una delle città più ricche d'Europa, e né di quella rinascimentale. Se noi andiamo sulla, dove c'è la Galleria Vittorio Emanuele, che è bellissima, prima della Galleria Vittorio Emanuele vi era per esempio un coperto Ficini, una struttura fatta dal Solari dal 1461. Davanti al coperto Ficini, quindi dove c'è l'Arengario, c'era il Rebecchetto. Ecco, questa è la Milano popolare di cui nulla rimane, che è una tipica piazza italiana questa. Si vede l'addossarsi di varie case, queste bellissime persiane lunghe che non rimangono in quasi nessuna parte a Milano, che era la tipicità del centro. E tutte queste zone furono abbattute con la felicità dei politici milanesi nell'Ottocento. No, 1860, comunque si inaugura l'Unità d'Italia, a gran voce chiedono di avere una galleria, perché almeno avevano il permesso di abbattere tutta la piazza per avere una nuova, in maniera anche positiva, non è sempre un male. Il problema è che nulla lascia traccia né memoria a Milano. Questa è la scapigliatura milanese, che a me non è che mi piace molto in termini estetici, però è molto rilevante. Io penso che come società italiana dovremmo riscoprire molto l'Ottocento, perché è molto strano che l'Italia è sempre stata al numero uno nell'armonia, nella bellezza estetica delle arti, dall'Ottocento al Novecento nulla lascia traccia. E sembra una cosa un po' irreale, proprio perché l'Ottocento per me è il secolo del concretizzarsi dei lumi del Settecento, dei sentimenti nazionali. Ma noi non abbiamo mai avuto uno stato fermo nel rilanciare le arti in maniera unitaria. Lo fece un po' il fascismo, che si creò veramente l'Italia in maniera negativa con tutti, però in maniera industriale si creò con la prima guerra mondiale il fascismo, da lì il nazionalismo italiano. Aspetta Fede, quello là dovrebbe essere Corso Vittorio Emanuele di adesso? No, questa è Via dei Servi, no, via... Corsia dei Servi. Corsia dei Servi. Di là c'è Vittorio Emanuele, questa è il Bottonuto. Quindi la scapigliatura milanese per me vale tanto, adesso c'è una bellissima mostra a Novara, perché andrebbe ricondotta la scapigliatura, fattori, i macchiaioli, a una ricerca di avanguardia e da lì arrivò l'impressionismo. Mentre per la storia dell'arte ufficiale sembra che sia nato completamente in Francia dal nulla. Se noi andiamo a vedere la pittura italiana nell'Ottocento, non avevano i finanziamenti statali, non avevano le grandi scuole. La genialità di Napoleone III è di creare i saloni dei rifiutati. La precarietà. La precarietà. Fascismo? Fascismo. Questo fu un libro della Sarfatti sulla vita, un po' a geografia, di Benito Mussolini. Questo fu uno dei libri più letti in Europa a quel tempo, come D'Annunzio uno dei personaggi più famosi. Fu tradotto in 18 lingue, Churchill lo lesse in maniera appassionata tra whisky e whisky. E la grandezza della Sarfatti, che era ebrea di Venezia, molto ricca, imparentata con i Levi, quindi con Natalia Gismur di Torino, fu di creare il mito di Mussolini. La Sarfatti fu la prima non a dare il potere a Mussolini, ma a creare la facciata del fascismo, che non era solo una facciata retorica, era mettere insieme in maniera sociale italiana per la prima volta vari intellettuali e arti. La Sarfatti crea l'immagine del duce, lo stile della sua faccia, ma si lega anche a Milano, perché Milano è la capitale del Novecento, si lega anche per esempio a Pesaro, che era un altro ebreo, che formò la tutte e due. Pesaro si suicidò prima delle leggi razziali, Sarfatti dovette scappare negli Stati Uniti per le leggi razziali. E poi Mussolini si era stancato degli lei come delle altre amanti, però almeno non la fa internare. Milano è capitale del Novecento, quindi abbiamo la Sarfatti che è lucidissima da un punto di vista intellettuale e artistico, chiaramente non politico, lesse per esempio I Differenti di Moravia, che gli scrisse dai 17-19 anni, e subito li difese a spada tratta. A Milano, nella Galleria Pesaro, si unì il gruppo Novecento, che per la prima volta si forma un'avanguardia sotto una regia regia, anche se suona male. Lo Stato italiano riconosce un'avanguardia in Italia, cosa che in Francia era normale. A quegli anni c'era anche la Galleria Il Milione, vicino a Piazza della Scala. Nella Galleria Il Milione si fecero le prime mostre d'arte contemporanea in Italia. Quindi non è il fascismo viene raccontato, o meglio, dopo 20 anni di berlusconismo sembra che fosse una cosa idilliaca, un'epoca d'oro, divenne brutto e cattivo con le leggi razziali, col patto d'acciaio e Roberto. Dall'altra parte la storiografia ufficiale ti racconta che il fascismo nasce in maniera agraria, e qui è un esempio della storia come diverse nelle città italiane: Ferrara, Dino Grandi a Bologna, Farinaccia a Ferrara, bruciare case del popolo. Queste magnifiche città, che sono sempre state le culle dell'arte, nel Novecento sono dei centri agricoli nulla più, un po' artigianali, di economia secondaria. Il fascismo in realtà nacque a Milano non per caso, il futurismo nacque a Milano non per caso. Quando Giolitti decise di bombardare lo studiolo di D'Annunzio a Fiume, tutti gli arditi del popolo di Fiume non a caso vennero a Milano. A Fiume erano abituati a bere in bar bellissimi di ferro battuto, Liberty, a straparlare anche di diritti alle donne, che poi furono fermati quando tornarono in Italia col fascismo. Quindi il clima di Fiume industriale, di nazionalismo, di questo incrocio di varie economie, culture, il vitalismo delle scatolette col vitalismo in polvere, sono tutte cose che non a caso vennero a Milano, perché Milano è il Novecento. Un esempio, il reclam del Campari. Dunque il Campari, Gaspare Campari, lo rilancia a Novara, nei fatti lo fondò a Milano. Lo fondò nel coperto Figinio, quello che c'era prima, i porticati a fianco alla galleria, tirato giù nell'Ottocento. Era un magnifico esempio di rinascimento milanese. Lì nacque il bar Campari. Nel 1900, uno dei primi, credo, 14, adesso non ricordo bene, o 15, c'è il Camparino, che ancora oggi c'è. È uno dei pochi bar che rimane a Milano storici del Novecento. Se noi andiamo nelle altre città italiane, in ogni città c'è un bar o un bistrò emblematico per la storia di quella città. Le Giubbe Rosse a Firenze, il bar, come si chiama quello di Roma? Comunque ci sono i bar per ogni corrente artistica. A Milano passa tutto il Novecento eppure nulla lascia traccia, se non uno dei pochi è il bar il Camparino, passato a Davide Campari, l'unico italiano a essere stato partorito in galleria. È un bellissimo esempio del liberty di quel tempo. Vi è il lampadario di Mazzucotelli, i mobili ebanisti di Eugenio Quarti, che mostrano un incrocio industriale che si formò a Milano. Milano è la triennale, prima era la quaternale del fascismo, prima ancora c'era l'ISMI di Monza, una delle prime scuole molto all'avanguardia a livello europeo di arte legate al lavoro, di arti applicate. E io credo che l'unione delle arti è il sogno di qualsiasi artista del Novecento, ma fu realizzato quando vi erano laboratori artigianali, che erano Parlamento e Tempio delle Arti, vale a dire quando gli ebanisti Eugenio Quarti, ci sono un po' di mobili a Castello Sforzesco, si incrociavano con i fabbri, con il ferro battuto di Mazzucotelli, che fece un po' di liberty a Milano. Insomma, Milano nel Novecento era una piccola Parigi rispetto alla tristezza, non tristezza, però alla società italiana che mostrava di essere industrialmente svantaggiata e quindi le città non avevano quel senso non affatto di libertà né di progresso ma di sviluppo anche nelle arti, Milano è l'unica a quel tempo ed è per questo che il fascismo non fu solo agrario ma fu fondamentale Milano per il fascismo, perché c'era voglia di velocità, c'era voglia, era una Milano frenetica. Il fascismo non distrusse mai, perché il fascismo non cambiò l'urbanistica italiana. Se si studia semplicemente la storia dell'arte ufficiale, si legge il manifesto futurista con Marinetti di bruciare il passato, bruciare i musei, distruggere tutto, riformare, come lo stalinismo e il nazismo, ma nei fatti fu solo retorica. Il fascismo non si permise mai in una città italiana di abbattere neanche un monumento medievale, di cambiare l'immagine della città. Anzi, riuscì a costruirci un edificio delle poste, del podestà, una stazione, con un certo connubio che ben ci stava. Il fascismo distrusse l'urbanistica solo a Milano, proprio perché c'era una precarietà e una voglia di nuovo e di costruire e di abbattere. Solo a Milano il fascismo riuscì nella sua impresa. Per il resto, in Italia si fece Littoria, qualcosina, Sabaudia, ma non cambiò mai l'urbanistica. Ecco il futurismo in questi quadri, prima di Boccioni, come si chiama, la città che sale, il ballo, questa è la rissa in galleria, questo colore viene tutto dal divisionismo, non è vero che il fascismo nacque dal nuovo cancellando. Boccioni e Balla, a differenza di molti avanguardisti in Europa, specie gli astrattisti, dipingevano divinamente, avevano fatto scuole d'arte applicate e venivano dall'Expo di Milano del 1906 di Brera, in cui questa divisione del colore, appunto il divisionismo con Grubisi, Previati, quindi a Milano c'è questa si crea questo mosaico tra la Milano 800, le varie industrie che si formano in Italia, e il nuovo di matrice europea, era molto parigina in questo. Brera era molto simile a Montmartre. Rissa in galleria, noi oggi parliamo di sicurezza, ma a quei tempi la galleria, ma questo sino dagli anni 70 dell'Ottocento, venivano cambiati i vetri dei vari bar, e c'era il bar Campari, il bar Biffi, il bar Gnocchi, uno più bello dell'altro dove si trovava gli intellettuali, era costernata di risse. Carrà arrivò in un paesino, Luna dell'Astigiano, arrivò a Milano e rimase sorpreso da questi scontri totali di nazionalismo, di euforia, che rappresenta una Milano dinamica che oggi poco rimane. Questo è l'esempio della velocità, com'è che si chiama il balloncino? Il cane che corre. Vabbè. Città che sale, rissa in galleria, cane in moto, può essere, no? Vabbè, di Balla, è uno studio perfetto della velocità, che a quei tempi era fondamentale. Noi oggi la diamo come acquisita, ma a quei tempi sulla bicicletta e sul cavallo si fondava l'industria e l'estetica dei tempi. Tutti i pittori del Novecento fecero dei dipinti dei ciclisti. Milano fu emblematica per il ciclismo, esattamente come Parigi. Oggi non viene ricordata tanto Milano, ma per l'industria della bici fu fondamentale. In via Solferino, dove c'era il Corriere, partivano vari giri d'Italia. Questo è il giro del 1912, l'ultimo giro a tappe. Questo è il mio bisnonno, il primo italiano a finire un Tour de France. E tutti questi ciclisti si trovavano a Milano in bici, perché per andare a lavorare andavano in bici, facevano i garzoni, e intorno a Parco Sempione, che è nato come zona per le corse di cavalli, c'era un bibitaio, vendeva granite, non lo so, molto scaltro, che la domenica organizzava corse clandestine e regalava qualche lira, e da lì partì le squadre del ciclismo italiano. Quindi c'è questa velocità. Quello prima, canna guinzaglio, viene dal fotodinamismo. Non fu un grande manifesto che riscosse successo al tempo, ma fu emblematico, perché la fotografia fu la cocaina del futurismo, perché la fotografia permise per la prima volta di fermare l'attimo e di riprodurlo. Era il sogno di qualsiasi pittore da sempre. Questo è un quadro a me molto, ma non questo di preciso, Sironi nelle periferie milanesi per me è molto caro. Sironi è un pittore che è stato riscoperto solo negli anni 80, perché era fascista, era il fascistissimo. qualsiasi grande opera pubblica del fascismo lui c'era, la Quinta Triennale con Terragni, anni guarda l'ospedale, un po' nel Palazzo di Giustizia, e quindi viene raccontato come il leader del fascismo, fascistissimo, il più impegnato, colui che scrisse la pittura muraria, basta la tele da cavalletto borghese. Lo volevano fucilare i partigiani, invece uno di questi era Gianni Rodari, lo riconobbe e lo salvò per miracolo. Nel 68 sua figlia si suicidò, lui verso la fine, vedendo la nuova Italia repubblicana, gli venne un magone terribile per essere fallito come uomo, pittore e pensatore, e iniziò a dipingere delle robe apocalittiche bruttissime, però che sentiva proprio, e diceva sì, il fascismo è finito, però c'era il clima della, c'era la guerra di Corea 50-53, e non gli piacque neanche questa democrazia. Per me invece l'unico Sironi che conta in realtà di studiare la geografia del fascismo, che sembra un'epoca d'oro dove tutto fu realizzato, rimase solo sulla carta il futurismo. È importante perché lui, che era l'artista più acclamato d'Italia, che poteva operare, fare quel che voleva di più, iniziò negli anni 20 a fare questi quadri, che per me sono... Poi vabbè, la metafisica deve essere ricondotta solo a Ferrara, De Chirico, ma in realtà sia Carrà che Sironi sentirono quella parte metafisica. Ed è un pensiero che per me è molto attuale. Questo è, riconducendomi all'inizio, che dico che per me è molto importante l'arte italiana dell'Ottocento, perché noi vediamo dei grandissimi artisti che sono sempre stati soli come dei cani. Per esempio, il Palazzo in Italia, mentre in Francia avevano il mercante, avevano la scuola, avevano la difesa statale, e quindi divennero delle grandi avanguardie acclamate dalla storia ufficiale. Gli artisti italiani, non essendo molto solitari come intellettuali legati all'arte classica, studiavano Piero della Francesca, studiavano Giotto, non vennero considerati nell'arte contemporanea, se non dopo in parte. In realtà erano molto più lungimiranti, essendo solitari. Per esempio, l'Arengario, che dopo vediamo, che è il museo del Novecento, venne fatto da Arturo Martini, un altro acclamato, non fascistissimo, neanche antifascista, direi non fascista. Scrisse nel 1942 un libro per me incredibile, che è La scultura lingua morta. Cioè, uno che poteva essere il positivismo numero uno, scrive che alla fine si è sperimentato in qualsiasi forma della scultura. Arriva alle stesse conclusioni di Michelangelo con la Pietà Rondanini. La scultura ha già detto quasi tutto. Bisognerebbe far parlare la pietra in sé. C'è un pessimismo anche in questo di Sironi, che è il più acclamato, che fa vedere l'angoscia comunque di quello che il fascismo vorrebbe ma non riesce a fare. Vale a dire una città solo industriale, la cancellazione del dialetto, la cancellazione della campagna, la cancellazione della società artigianale dell'Italia misera, non riuscì mai a fare. Sironi li pesa già, non aveva l'ottimismo invece dell'artista d'avanguardia sotto il nazismo e lo stalinismo, che diceva tutto prima fa schifo, adesso ci siamo noi, la società del futuro meccanizzata sarà il futuro. Mentre con la società democratica, con le grandi avanguardie, con le Bauhaus, con l'idea di fare tutto a misura di tutto, che l'uomo dovesse perfettamente essere borghese e stare bene senza il paesaggio, senza la bellezza, forse sono state le avanguardie nel dopoguerra, pensiero mio, a riuscire a realizzare quello che il fascismo voleva fare. Bene, quindi adesso abbiamo concluso un attimo una... No, leggo due robe su Sironi. Poi c'è la parte dei fiumi dell'acqua, che è molto più libera e divertente. In solingo amore mi sporgo in alto nei piani degli abbaini o balconcini delle case, su tasselli di vecchi capannoni o reticoli di antiche fabbriche, sul verde tempestoso lungo le rotaie sotto i rondoni impiccionati. Sironi periferico è ancora in giù, da basso, nella Milano capitale del Novecento, propagata nelle seconde case della borghesia lombarda, e nelle officine, nei laboratori, incollati alle case antiche, illuminate da vetrate a griglia. Nessuno però nel mondo dell'arte si chiede dove stia andando quel paesaggio urbano non più industriale, quell'alienazione che i teorici, gli industriali e il potere fascista e antifascista hanno continuato a rafforzare anziché ridurre, rispondendo al positivismo di Le Corbusier, dei contemporanei lavori di riqualificazione urbana, all'architettura popolare dell'Unione Sovietica, della Bauhaus, del nazismo, dei nuovi quartieri operai al tempo del grande boom. Sironi dipinse Malinconia sulla tristezza dell'oppressione, immobile, costante e continua. Questo Sironi delle periferie. E questo sentimento è il più umano, poiché triste, ma pare intrappasso di felicità momentanea, dolce e amaro. Solo gli esseri umani sono malinconici, e lo sono perché vedono gli animali razionali affrontare la vita e le sue complicazioni ordinate alle regole. Le dittature e le ideologie sono tentativi alienanti di imitare in questa matematica disciplina la natura animale, che tradotti alla vita umana era, che tradotto alla vita umana è razzismo. Questo per me è una metafora di Milano del Novecento. Vale a dire un grande sviluppo urbanistico, ma già gli intellettuali fascisti si rendono conto di quello che poi avverrà nel dopoguerra con la società di massa, e quindi che sostanzialmente per me senza paesaggio non si può vivere, non basta star bene con le persone. Il paesaggio è indice tantissimo dello stile di vita, di quello che uno può con ritenere progresso. Adesso facciamo l'acqua che è più leggera. Ok, bene. Quindi adesso, cioè, per sconnettere un po' il filo, adesso abbiamo visto un secondo per quali motivi potremmo considerare Milano la città meno italiana d'Italia. Adesso invece facciamo un esempio di come Milano, fra le città europee, è quella probabilmente con le caratteristiche appunto meno europee, e come metafora di questa cosa Fede ha scelto l'acqua, il rapporto fra Milano. Ho dimenticato solo l'ultima roba pesante sul Novecento che ho dimenticato, che a me sta molto a cuore, è il Bottonuto. È un quartiere che andava da quello prima era il Bar Giamaica, che è passato tutta l'arte informale d'Europa. Oggi al Bar Giamaica non c'è neanche una cacchio di fotografia che fa vedere cos'era, mentre se vai a Montmartre riescono, i francesi sono bravi a vendere, vai lì, ti viene ancora voglia di arte del Novecento. Bar Giamaica, fino agli anni 70 c'è gente che provava a pagarsi da bere con i quadri, gli intellettuali parlavano in francese, in tedesco, fingendo di non essere di Milano, insomma era stato importante. Manzoni, uno dei pochi artisti contemporanei che a me piace. E tornando sul Novecento veloce, il Bottonuto è un quartiere che andava da Via Larga a Missori, a Corso Europa. Era la vecchia Milano, che era fatto di strade strette come Carugi, Milano popolare, e fu letteralmente rasa al suolo dal fascismo. Il fascismo non toccò mai neanche un architrave medievale in una città italiana. Milano non ebbe alcuna remora nell'abbattere qualsiasi cosa, proprio per la precarietà di Milano e per la voglia che Milano economica, il capitalismo di Milano, aveva di fare di nuovo. Tirando giù, noi vediamo, ecco, Milano forse è l'unica città italiana che l'architettura contemporanea è riuscita. Noi andiamo fuori dal Duomo, San Babila, sembra un po' Gotham City, anche Corso Europa, però c'è un connubio tra architettura anni 60, anni 70, tra marmo fascista, che non riesce a distinguere, è fatta bene. Nelle città italiane c'è un centro storico bellissimo e c'è le periferie, che sono i centri storici più belli del mondo, e le periferie più brutte d'Europa. Ma senza andare, basta fuori, si va appena si vede una città, una piazza antica, è un grattacielo che fa proprio schifo a fianco al centro appena dopo, popolare negli anni 60. Milano invece, essendo patrona del Novecento, riuscì anche almeno fuori a costruire. Però fa strano perché dici Milano è stata una città più importante economicamente del Medioevo, non rimane nulla del Medioevo se vai in giro. Tu vai in Missori, è tutto nuovo, eppure in Missori c'era San Giovanni in Conca, una chiesa paleocristiana bellissima, fu rasa al suolo senza pensiero, rimane l'abside, si può andare sotto, è molto bello, anche se non ci sono mai stato, e anche San Giovanni Laterano fu rasa al suolo. È forte perché il Bottonuto è come prendere una metà centro e raserlo al suolo, dall'idea della precarietà di Milano. Leggerezza. Argomento molto più leggero, sulle vie d'acqua. Milano è l'unica città in Europa, ma no, tra le città antiche, a non sorgere nei pressi di un rivo perenne. E questo è molto strano, perché le città nascono dove l'economia viene facile, sul litorale, lungo il mare, lungo un fiume. Milano no. Nonostante questo, e qua io ricondurrei la milanesità del Manzoni, piuttosto che solo in una produzione senza poi legarla a nulla di bellezza, di paesaggio. Dai Celti ai Romani deviarono il corso del Seveso all'Olona portandolo a Milano per fare una cinta difensiva d'acqua che ancora oggi non si sa esattamente dove sia, intorno a Milano. Questo fu il primo esempio al mondo di una corruzione del paesaggio, della ricchezza idrogeologica da parte dell'uomo. Milano, fino agli anni del fascismo, aveva 300 corsi d'acqua. Qualche anno fa questa giunta iniziò, no, anche prima, con Expo, una miriade di progetti per rilanciare le vie d'acqua, tenendo conto unicamente della cerchia dei navigli, come se Milano fosse importante per due navigli, quindi un po' più acqua che va in centro, che sono belli da vedere. Ma avere 300 corsi d'acqua con 5 piccoli fiumi che passano dentro meriterebbe una discussione molto più profonda. Come aneddoto mi piace raccontare quando arrivò da noi Leonardo da Vinci. Leonardo, per i suoi tempi, probabilmente fu testimone delle più belle invenzioni del genere umano, almeno in Italia, dal punto di vista estetico del genere umano. Arrivò a Milano e rimase a bocca aperta perché si ritrovò un sistema navigabile prima al mondo. E cercò in qualche modo di chiedere, si interrogò, andò addirittura negli archivi, tanto il suo genio Viscontei, per ritrovare chi avesse politicamente deciso questo disegno straordinario idrogeologico. E non arrivò a nessuna conclusione. Al sud di Milano incontrò le Marcite. E rimase a bocca aperta. Adesso anche gli storici dell'arte hanno iniziato a rivalutare le Marcite. La Marcite, per un appassionato di foto o di caccia ai limicoli beccacini, è un santuario, sostanzialmente è un prato che non conosce riposo, poiché è sempre alimentato da acqua sorgiva, che Milano è ricca di falde acquifere e defluiscono poi tutti i laghi, vabbè, della pianura padana, ha una ricchezza incredibile di acqua. Il genio la genialità dei cistercensi fu tracciare ogni un metro e mezzo nei terreni agricoli dei solchi coi fontanili che portassero le acque di superficie a irrigare sempre i campi. Questo vuol dire che è come se Milano fosse stato il Qatar, cioè avesse sempre avuto dei pozzi petroliferi. Una marcita permette di avere 3-4 tagli più di foraggio all'anno, quindi sempre benzina per i cavalli. Questo ormai vari storici dell'arte hanno iniziato a studiare un po' il paesaggio. A Milano non ne sopravvive quasi nessuna, eppure ha una biodiversità fondamentale e ha una produzione altissima. Ne rimangono un po' grazie al Parco Sud Agricolo intorno a Chiaravalle. Chiaravalle, fatta dai cistercensi, aveva così tanto foraggio, così tanto latte, che provò a sperimentare delle maniere diverse per fare il latte e creò il grana padano. Oggi gli emiliani non molto ce lo riconoscono, esattamente come il riso. Il primo posto in Occidente dove venne reintrodotto a metà 400 il riso non fu Vercelli, che non lo vogliono ammettere, ma fu Milano. Queste vie d'acqua. Leonardo arriva appunto da noi e per me, sia Leonardo sia Bramante arrivarono al punto più alto delle loro conclusioni intellettuali quando arrivarono a Milano, poiché vi era una forte libertà economica e di ricerca. Leonardo a Milano non riesce a finire quasi nulla, continua a portare avanti, non poteva permetterselo di fare una roba del genere a Firenze, che era pieno di una forte rivalità con altri, e un signore, i Gonzaga, gli Este e i Medici non avrebbero pagato nulla, l'avrebbero preso ammazzate. Invece a Milano può permetterselo, e vaga, fa delle ricerche incredibili anche sulla dei minerali, come si chiama? Geologia. Bravo, della geologia. Sono qui per questo. Va sulle Grigne, scopre addirittura un canale nuovo nelle Grigne, rimane basito solo da San Gottardo, poiché a San Gottardo arrivava, non era ancora Zola, ma la prima idea di Zola da Gorgonzola, quindi tramite l'Adda, tramite la Martesana, quindi il lago di Como, arrivarono dai crotti che ci sono dalla Valtellina, Chiavenna e la Valsassina, arrivavano oltre ai metalli, specie il piombo, arrivavano i formaggi invecchiati, e invece dal Pavese, quindi dal Po e quindi da quella parte di là anche di mare o dall'Oltrepò, l'Oltrepò è bellissimo, E sono solo prati perché serviva al latte della Lombardia, per quello non è stato completamente distrutto. Quindi Milano si rende conto che Leonardo si rende conto che a Milano c'è questo sistema economico incredibile, ma è completamente precario. Ed è per questo che il fascismo chiuse quasi tutti i corsi d'acqua. Quella prima era San Marco, c'erano due laghetti, Santo Stefano e San Marco. Ed è per questo che il fascismo chiuse quasi tutti i corsi d'acqua. Non tanto perché era brutto e era cattivo, ma perché non c'era un disegno politico dietro economico. Ovvero, Milano era leader nel Novecento, anche a livello europeo, di industria, anche col triangolo industriale. E quindi c'era un'esigenza nuova di vendere terreno, di costruire, e l'economia di acqua non rendeva più. La Francia riuscì ancora oggi nelle vie d'acqua a renderle economiche, l'Olanda anche, hanno imparato dalla storia dell'arte a salvare il paesaggio. Ma a Milano c'era una grande frenesia, grandi capitali, quindi effettivamente non servivano più i navigli. È per questo che li chiuse completamente. Questo non è una giustificazione, ma è per rendere conto della precarietà. Neanche Leonardo riuscì a risalire su chi avesse disegnato esattamente tutte le vie d'acqua, non il naviglio grande che era Ticinello, il naviglio pavese o di Bereguardo fatto da Francesco Sforza, ma tutto il sistema di 300 corsi. Quest'acqua voleva dire avere qualsiasi spezia, mettere in collegamento i mari, l'Adda, il Lago Maggiore, il Lago di Como, il Po, mettere tutta la Lombardia su acqua. Francesco I di Francia dovette umilmente arrivare a Milano e studiare i nostri navigli per portarli in Francia. In Francia sono oggi l'emblema della loro, non della loro economia, comunque del loro paesaggio. Milano l'acqua era fondamentale per i mulini, mulino delle armi, mulino Dorino, che è emblema della nostra precarietà, a due passi dalla motorizzazione c'è ancora oggi una vecchia cascina con un mulino distrutta di fronte a merlata tutto il cemento, perché era una zona economicamente molto valida. Come esportazione, Milano nel 1440 è la città italiana con 100.000 persone, con la maggiore popolazione d'Italia. Vendeva il fustagno, era il più resistente d'Europa, la siderurgia, via degli orefici, i cavalli più belli al mondo furono dei Gonzaga, e questo è inopinabile. Che cos'è il fustagno? È un materiale abbastanza povero ma resistente, derivante da lana e non so in altro in che modo. Okay. Le selle più belle, la siderurgia, venivano fatte a Milano, questa era l'acqua. Col fascismo quest'acqua non si riesce più, il fascismo ha voglia di novità, la parte agricola non rende più, è per questo che vengono chiusi. Questa è via Senato. Bene, la parte sulle vie d'acqua è finita. Che parte c'è? Passiamo alla stabilità. Ecco, la mia tesi è che questa precarietà non mi basta, la cosa che a Milano nulla rimane perché non c'era materie prime. Perché Michelangelo, quando voleva scegliersi i propri marmi, Massa Carrara viene salvata molto, viene disegnata per il marmo che serve all'arte. Arriva il laghetto in Via Larga per il marmo di Candoglia che arriva sul Duomo. Tra l'altro poco è di 50-60% è di Candoglia, perché Candoglia era in mano al Vescovato Cristiano, l'altra parte di un altro comune che non mi ricordo, che era protestante, costava meno, ma non si poteva dire che si prendeva dai protestanti. Vabbè. E non mi ricordo più. E sarebbe facile. Ah no, esatto, per me non è giustificabile solo con l'idea che a Milano nulla rimane, perché sarebbe, mi sembra assurdo, una roba un po' barbarica, che dici no, un marmo io te lo stacco da lì. Per esempio San Lorenzo, una delle chiese più importanti in Occidente, completamente spogliata, sulla base hanno trovato, dato che era zona d'acqua, Milano è ricca d'acqua, hanno trovato un sistema di palleria di castagno e di materiali di tolti, pagani, capitelli, che potrebbe giustificare questa esigenza di marmi. A mio avviso il nulla rimane a Milano per la precarietà. Per arrivare a questo sono partito dalla storia economica, che è sempre figlia della geografia. Noi prendiamo la Lombardia. La Lombardia è ricca di città che storicamente sono state potentissime e non hanno mai avuto una concordia, sono sempre state l'un contro l'altro, chiamando i francesi, chiamando una Venezia, chiamando una Genova, e hanno sempre fatto una guerra terribile. Milano, coi Visconti fu un... dunque poi dipende, però con Gian Galeazzo Visconti mettiamo che ebbe dall'imperatore Venceslao l'incarico di, cioè la nomina a essere duca, era la città più importante, addirittura arrivò a disegnare un progetto di dividere l'Italia, lui e dall'altra parte gli aragonesi nel sud Italia, altro che i piemontesi. Ecco, la Savoia, il Piemonte, si è sempre, i Savoie si sono sempre salvati perché geograficamente era uno stato cuscinetto tra Francia e Austria. Quindi lasciamolo lì, che non dà tanto fastidio, è lontano dalle signorie italiane ed è garante di stabilità europea. Milano invece, come geografia, è sempre stata la, che è una metafora dell'Italia, una ricchezza incredibile, ma non ha mai avuto la concordia. Meno male che Dante non riuscì a vedere il Rinascimento italiano, perché il vero Rinascimento in Italia è il Medioevo, non è il Rinascimento in cui Milano, per esempio, è stata per pochissimo in mano ai milanesi, al potere di Milano. Se noi prendiamo velocemente le province lombarde, Brescia e Bergamo dal 1427 sono nati con Venezia, l'Adda, anche quando Renzo deve andare di là dai Manzoni, si salva perché c'è l'Adda, lì c'era le Venezie, hanno sempre fatto di tutto contro Milano, Lodi è stata rasa al suolo da Milano nel 1111, ricostruita da quella merda di Federico Barbarossa. I comuni per me sono fondamentali, letti male dalla Lega e dalla storia, non è storia, ma fu un momento altissimo i comuni, perché Milano e i comuni, quando si misero insieme a Legnano, che tra l'altro l'omino di Giussano probabilmente non è mai esistito, sconfissero il Sacro Romano Impero con Federico Barbarossa, era la potenza economica più forte d'Europa del tempo ed è una metafora d'Italia, se mai si fossero uniti avrebbero creato una stabilità che a noi manca. Prendiamo velocemente Brescia e Bergamo, sono sempre nati con le Venezie dal 400 ed erano ricchissime e sono sempre stati nella lega anti-Milano. Lodi è stata rasa al suolo da Milano, ricostruita dal Barbarossa, e quindi fedele a Federico Barbarossa e suo nipote, che è l'unico monarca che posso stimare, Federico II di Sicilia, anche se non sarebbe di Svevo. E Cremona è sempre stata contro Milano, fu adorata da Federico Barbarossa. E Pavia, il problema di Pavia è che sempre, per me Pavia è una città idilliaca, perché è una città armonica che non è stata disegnata da un intellettuale, a differenza di Pienza o di Mantova, che sono città incantate, volute, magiche. Pavia è naturalmente così grazie ai Longobardi e ancora oggi è bellissima perché non ha quasi periferia e questo scrigno con fuori una realtà bellissima che passa sia a Naviglio che al Ticino. Comunque Pavia è sempre stato il dualismo di Milano, perché fino a Filippo Maria Visconte una parte della corte era Pavia, una parte della corte era a Milano, e anche sotto Francesco Sforza dovette sempre lasciare autonomia a Pavia in maniera di tassazione giudiziaria e non fu certa non molto alleata di Milano. Vediamo le altre. Sondrio è sempre stata sotto Como. Como la distrusse, il patriziato di Rusconi distrusse varie volte tutte le città di Sondrio. Lecco non è mai esistita storicamente, io sono dalla parte di Como, però era bella di paesaggio, ma storicamente era comasco. Varese, c'era i signori di Castelseprio, massacrati dai Visconti nel 1286, e poi non contò molto, se non con il 600, la Controriforma e poi il fascismo. Ecco perché Varese comunque sotto la Lega, che non ha avuto un primo di progresso. Cremona, ho detto prima, è sempre stata nella Lega anti Visconte. Quindi i comuni si sono sempre, tranne nel momento della battaglia di credivo, ho detto prima. Questo non lo vabbè, so. Dai, la battaglia dei comuni. Battaglia di 1454, quello abbiamo visto no. Prima. No, vabbè, hanno sempre fatto delle leghe anti Visconti. Quindi la geografia dice tanto della precarietà di Milano, perché si ritrovava tutte le città ricchissime contro Milano, i francesi, gli svizzeri e gli spagnoli arrivavano dalle Alpi e sotto al Po aveva le signorie più belle di tutte. Noi abbiamo avuto 400 anni di Gonzaga che ha mantenuto, anche se la collezione Gonzaga era il museo più ricco al mondo, è stato venduto nel 600 agli inglesi, che almeno sono fatti una storia artistica, non rimane nulla, però ha tenuto cosa è stata Mantova per 400 anni. I Medici sono rimasti sino al 1737 e Maria Luisa Medici ebbe la genialità di dire sotto gli austriaci: tenete il potere, ma ciò che c'è negli Uffizi e in Palazzo Chigi rimane a Firenze. Questo è un sintomo di stabilità. Palazzo Pitti. Palazzo Pitti, bravo, bravo. Chigi è bello, ma è a Roma. Fede, tutto questo... Tutto questo per dire, per me la geografia è un sintomo della precarietà di Milano. Però ci sono stati dei momenti di stabilità, perché se no sarebbe una roba un po' irrealistica. I momenti di stabilità, a mio avviso, sono stati sotto Sant'Ambrogio, che dovrebbe essere sacro ogni milanese, anche se da un punto di vista cristiano non mi fa impazzire, Francesco Sforza, Ludovico il Moro, gli austriaci solo sotto Maria Teresa, per il resto no. Napoleone, uso la scusa che non ha lasciato una bellezza artistica, perché è un tasto dolente comunque per l'arte italiana Napoleone, per le 500 opere che sono al Louvre, che dovrebbero essere per legge tornare in Italia. Sono stati l'unico stato che non li ha richiesti, se non per la Chiesa Cattolica e Canova. E poi l'ottava triennale, un momento di neorealismo. Questa è stata la stabilità a Milano. E se noi pensiamo oggi a identità milanese, a qualche immagine, sono ricondotti in questi momenti storici. Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio fu il primo dottore della Chiesa. Nacque a Treviri, che è la città di Carlo Marx, e anche una bellissima chiesa paleocristiana, almeno il contorno. La sua famiglia era molto importante nella Roma, nel patriziato pagano, beh, non solo milanese, comunque del nord Italia del tempo. Si convertì al cristianesimo, in odor di cristianesimo, diciamo, come Costantino, anche per un punto per il potere politico. Ambrogio studiò Aurelio, studiò a Roma nelle migliori scuole del tempo, imparò il greco, ebbe una formazione pagana e dopodiché arrivò a Milano. A Milano, poi il problema di Ambrogio è che c'è Paolino che scrive, è il suo biografo e ha creato una agiografia, non sappiamo il vero o il no, però sono bei racconti. Sappiamo che a messa un bambino fa Ambrogio vescovo, tutto a Milano dice Ambrogio vescovo, lui non vuole essere vescovo. Riempie la sua casa di prostitute, fa torturare degli eretici, scappa col suo asino Betta su via Novara, che oggi è morte e cemento, ma una volta era molto bella. Arriva in un paese, dice Corbetta, Corbetta, e da lì Corbetta. Vabbè, è una bella geografia. Comunque Ambrogio a un certo punto il popolo l'acclama, diventa vescovo ed ebbe un'idea straordinaria: avere le basiliche ambrosiane, che oggi è una delle poche parti paleocristiane che rimane, proprio perché c'era Ambrogio vescovo. Sant'Ambrogio, non voglio fare una descrizione su ognuna, che sono bellissime, comunque sono un unico esempio. Abbiamo una sola foto, quindi devi far abbastanza. Bene. Comunque, per me la sua intelligenza politica incredibile fu di sognare una notte l'esatto posto in cui lì fuori erano seppelliti dei martiri cristiani uccisi dai pagani, San Gervaso e Protasio. Col popolo milanese scava le fosse comuni, li porta all'interno della chiesa. Questa sembra una cazzata a noi oggi, ma in realtà è la base di una parte di cristianesimo, il culto dei santi. Da quel momento tutto il mondo occidentale scava i propri martiri e crea i santi. A Roma si va nelle catacombe, che non è vero che era il luogo dove si rifugiavano i cristiani erano già liberi, lo facevano nel tufo, si seppelliva lì per comodità e non c'era ancora una chiesa potente per fare le grandiose opere, e si iniziano a tirar fuori i santi. Quindi semplicemente questo fatto è incredibile, a mio avviso, anche perché lui sognava di essere seppellito all'interno di Sant'Ambrogio, ma il popolo milanese non avrebbe mai accettato lui senza nessun santo, ci mette anche il fratello. Fece anche la basilica di San Nazzaro, che era degli apostoli, Ambrogio dei Martiri. La Basilica di San Lazzaro degli Apostoli c'era anche a Bisanzio, cioè a Costantinopoli, e c'era anche poi a Roma. Quindi è voler ricondurre fin da subito Milano al centro della Chiesa. Ambrogio riuscì a convincere tre imperatori diversi, a partire da Teodosio, a fare delle grandi battaglie contro gli ariani e contro gli eretici. Tant'è che a San Vittore, lui chiamata, non mi ricordo come la chiama, San Vittore, dove c'è il Museo delle Scienze della Tecnica, nulla rimane di quello che c'era. C'era un tempio pagano, c'era lì il martire padre Vittore, una chiesa importantissima che nulla rimane, è stata totalmente rifatta. A San Vittore fece delle veglie col popolo milanese cantando per poter scacciare l'eresia ariana. Al di là dei contrasti ideologici cristiani, inaugurò gli inni sacri alla messa cantata. Non era più fatta da una o due persone, ma era partecipata. Scrisse a Sant'Ambrogio, e poi il resto è quasi sparito, ne rimangono 20, i titoli, che era praticamente delle esortazioni come Kyrie eleison sulle pareti. La sua genialità fu studiare la cultura pagana classica e ricondurre il mondo greco nel rito ambrosiano, che poi divenne rito cristiano con la Controriforma, anche perché era gestita da Carlo Borromeo, che milanese amava Ambrogio. Un'altra roba, per esempio, è l'idea del gallo. Il gallo si dice dai pellegrini, da Eusebio di Cesarea, da quelli che ci lasciano delle tracce di com'era Gerusalemme, la messa, i fedeli si alzavano prima del gallo, iniziavano a cantare, e quindi il gallo era sintomo di pigrizia, di indifferenza. Ad Aquileia ci sono i mosaici più belli che conserviamo paleocristiani, e c'è il gallo. Ecco, la sua genialità fu, da cultore del mondo pagano, di portare il cristianesimo d'Oriente in Occidente, nelle parti almeno più importanti. Quella del canto è abbastanza geniale. Ho una domanda: come il gallo si alza con la luce? Cioè, loro si alzavano prima che sorgesse il sole? Sì, dovevano essere presenti prima. A me non mi piace questa cosa di sveglia, comunque, questo monito. Sono piccole cose, però, per ricondurre la sua genialità politica di diventare vescovo, di riuscire a, per esempio, adesso non mi ricordo, mi pare Teodosio I a Tessalonica fece una strage in una sinagoga, la bruciò, e poi disse perché i locali avevano ammazzato una carica pagana, e fa: vabbè, ho sbagliato, vi ricostruisco la sinagoga. Lui no, per Ambrogio, vabbè, ormai l'hai fatto, però c'era ancora, sai, il peccatore, hanno ammazzato Gesù Cristo. Però è la forza di un vescovo che riesce a portare la politica e a convincere un imperatore stesso. E anche per questo Milano, oltre capitale, fu importante, e quel poco che noi abbiamo di paleocristiano si riconduce alla vita di Ambrogio. Dopo ci sono stati altri grandi vescovi come Simpliciano, ma che da un punto di vista architettonico non ha lasciato come Ambrogio, con le basiliche ambrosiane, le quattro. L'unica che non rimane è San Dionigi. Il secondo momento, sì, poi vi velocizziamo, sennò poi diventa troppo pesante. Il secondo momento è Francesco Sforza, per me. Io in realtà sono a favore dei amo i Visconti, Sforza non mi piacciono. Uno potrebbe dire: perché proprio Francesco Sforza e Ludovico il Moro? Vabbè, sono i più famosi, quindi è facile. In realtà è proprio per la stabilità. Cioè, Gian Galeazzo Visconti crea il ducato più ricco e potente, riesce a conquistare mezza Italia esattamente, le signorie più ricche del tempo, tranne Firenze. Si pone l'idea di dividere l'Italia in un regno, quindi era molto importante. Suo padre Galeazzo II fece il Parco Visconteo, che era nella zona di Pavia, era da Pavia la Certosa bellissima, fatta da Gian Galeazzo, che è sepolto lì. Tra l'altro fa un mausoleo per tutti i Visconti, signori di Milano, per i secoli, l'unico che finisce è lui, per dirla precaretta dopo. Il Parco Visconteo era una reggia di caccia di 22 chilometri, di una bellezza incredibile. Geoffrey Chaucer per caso ci capita e dice: non ho mai visto un giardino più bello. L'Inghilterra dei tempi, non in maniera economica ma di paesaggio, non era lontana dall'Inghilterra declamata da Cesare nel De Bello Gallico, cioè quattro barbari che fanno un fuoco tipo Terra dei Fuochi. E comunque, per dire, dalla ricchezza che fa i giardini più belli al mondo, questi giardini sono stati poi le guerre d'Italia, al centro della disputa. Francesi e Sacro Romano Impero furono disboscati da Napoleone, gli austriaci li vendono in piccoli lotti agricoli, per dire la precarietà, il furore capitalista, e toglie uno dei giardini più belli che c'era nel mondo antico. C'era l'Orsaia, la zona degli orsi, degli struzzi, dei ghepardi. Quindi non è che prima non ci fosse una Milano forte economicamente. Petrarca arrivò a Milano, Giotto arrivò a Milano, mi sono dimenticato una roba. A Palazzo Reale ha scoperto da pochi anni che nella mansarda c'era un po' di Giotto. Questo è emblema della precarietà di Milano, perché Giotto, anche per sbaglio, andava a bere una roba, lasciava una traccia artistica. Giotto come Leonardo e come Caravaggio. Qualsiasi grande artista arriva a Milano, nulla si sa più di nulla. Nulla si sa più di nulla. Michelangelo Merisi, da Caravaggio, in realtà nacque a Milano. Sappiamo tutto di Michelangelo tranne quando sta a Milano. Sappiamo che va a Roma, dorme dal Grammatica, poi va dal Cavalier d'Arpino, poi arriva dai Giustiniani, sappiamo che mangiava robe di ortiche, che non aveva soldi, le risse, tutto sappiamo. Di Milano nulla dei suoi anni. Giotto arriva a 7-8 anni a Milano, non sappiamo nulla di Giotto, è rivenuto fuori per caso. Petrarca aveva una casa sulle cave, dove stiamo un attimo salvando questa cascina, aveva tutto un percorso che la Moratti ci ha fatto, le bellissime palazzine nei suoi giardini. E da poco si salva la casa di Petrarca. Noi a Firenze, grazie a secoli di Medici, quindi governo stabile, sappiamo che Leonardo è finito per sbaglio in un party, tipo Terrazzo Sentimento, accusato di sodomia, salvato perché c'era uno importante. Sappiamo che Donatello lasciava nel propria bottega un sacco pieno di monete, quindi aveva le mani bucate. Sappiamo quasi tutto della vita degli artisti, anche le cose più aneddotiche, tranne quando arrivano a Milano. A Milano di Lorenzo Ferrari fa 30 anni non si sa nulla, Giotto non si sa nulla, Caravaggio non si sa nulla, si è incerti sulla datazione di tutto ciò che è di Leonardo quando arriva a Milano. Questo per dire la precarietà. Finalmente c'è un'altra stabilità per me, poi magari ce ne sono altre, dopo Ambrogio, che è Francesco Sforza. Arriva come condottiero, sposa la figlia di Filippo Maria Visconti, Bianca, il loro matrimonio alla Città dell'Amore è Cremona, gliela danno in feudo nel matrimonio, e la sua grandezza fu arrivare a un equilibrio. Finalmente c'è la pace di Lodi. Lodi, simbolo dell'anti-Visconti, anti-Milano, a Lodi c'è la pace di Lodi, che è il momento di pace d'Italia, che durò dal... Perché questo l'abbiamo visto prima. Vabbè, non è che lo vedi, lo so. No, è 1400, aspetta. 1460, così, fino a... Dunque, 1492, muore Lorenzo Magnifico e muore Piero della Francesca. È il momento più triste della storia dell'umanità. Si inaugura anche il genocidio negli Stati Uniti. È il momento più basso per l'Italia. Da lì a tre anni dopo c'è le guerre d'Italia, la fine del Rinascimento. La grandezza del Rinascimento italiano è partita dalla pace di Lodi. Quindi Venezia, Firenze, Milano, Roma e gli aragonesi fanno un patto di smettersela di alzare le tasse e spendere miliardi in guerra, ma di farsi guerra estetica, ognuno ingaggiando un miglior artista. Lorenzo Magnifico spendeva un quarto delle entrate di Firenze per mantenere stabilità estetica, bellezza di paesaggio a Firenze, e mandò i più grandi artisti del tempo dal suo nuovo amico Francesco Sforza. Nel 1478 arrivò Bramante. Nel 1482 arrivò Leonardo. Io starei per lo più su questi due, perché sono stati gli emblemi, e a mio avviso riuscirono a dare il meglio del loro intelletto quando arrivarono a Milano, perché furono più liberi di poter andare a ricercare e a studiare. Leonardo si prese un po' troppe libertà nei confronti dello Sforza. Questo è l'unico dipinto vero su tela che abbiamo di Bramante. Fino al 1915 era conservato a Chiaravalle, che ho letto prima, da dove è arrivato la Marcita, quindi Cistercensi, che era un centro economico fondamentale. Questo per me è importante, lasciare dipinti il loco per salvare quel paesaggio lì e non creare un museo che non comunica più col territorio. E questo invece è San Satiro. Bramante a Milano porta in sé il Rinascimento italiano. Donatello, questo è lo stiacciato, quindi l'inizio della prospettiva. San Satiro è una chiesa abbastanza anonima, che intorno c'è il Bottenuto, hanno tirato via tutto, si pianta centrale ma non è tanto grande. La cosa bella è che in poco in un metro, adesso non mi ricordo, di profondità, riesce a dare questa resa prospettica incredibile, come se ci fosse realmente un arco a tutto sesto di svariate dimensioni. Questa è la maestria di Bramante Urbinate, e quindi a Milano sia lui che Leonardo conferiscono le più belle ricerche artistiche e possiamo dire luministiche delle signorie del tempo a Milano, e si uniscono. Erano due grandi amici, tutti e due cultori della musica, e a Milano duettarono creando bellissimi spettacoli scenici a Castello Sforzesco di cui nulla si sa. Bramante a Milano andò da non so il nome completo, comunque Ambrogio Visconti. La sua casa c'è ancora oggi, nulla rimane, non si sa neanche se sopra ci sono un po' di disegni della facciata, non si sa neanche se li dipinse lui o no. A Brera abbiamo un sacco di pitture murali staccate, era una tecnica usata, non è una tecnica, un'idea terribile da fine 800-900 di staccare la pittura muraria per metterla in museo, una roba distruttiva sia per la pittura e cancelli la memoria. E questi erano i dipinti con, questo pare, Leonardo, Eraclito all'interno della casa. Tutto questo venne fatto sotto Francesco Sforza e poi Ludovico il Moro. No, questo ho detto una cazzata. Questo sotto Ludovico il Moro. Sotto Francesco Sforza vi è la Cagrande, vi è il Filarete. Questo è Bramantino. Forse allievo di Bramante, la sua sfortuna o fortuna fu di nascere a Milano, quindi quasi nulla sappiamo del Bramantino. Questi sono gli arazzi, il primo ciclo laico in Europa, sono gli arazzi Trivulzio, fatti dalla manifattura di Vigevano. All'interno del Castello Sforzesco, gli arazzi dei mesi. Andiamo un po' veloce, se no. Questa non è bellissima di per sé, questa è la chiesa fatta dagli apostoli di Sant'Ambrogio, rifatta in facciata, che non è splendida. Dietro c'è la statale, quella è la via più stretta di Milano, dove c'era l'osteria delle lune lì di Renzo, del Manzoni. Questa è la cappella dei Trivulzi. I Trivulzi, l'emblema di Milano è questo, anche delle famiglie patrizie ricchissime che fino alla fine hanno cercato di ammazzare i Visconti o gli Sforza. Cioè tutti i Visconti erano tiranni perché continuavano a essere assassinati, avvelenati, ed è sintomo della precarietà intestina di Milano. A Firenze, dopo che fan fuori Giuliano e gli Albizzi e i Perizzi vengono trucidati, nessun nobile mai più tentò di ribaltare i secoli Medice di potere, perché si trovava benissimo, riusciva a avere un equilibrio. A Milano fino alla fine invece abbiamo il patrizzato, i Lampugnani, i Trivulzio, i Litta, che vanno contro il potere. Tant'è che questo era, il Trivulzio era fedelissimo di Francesco Sforza, verso la fine viene premiato come ambasciatore di Francia e chiama i francesi per tirar via lo Sforza, quindi era qui e viene resumato e cacciato. Questa cappella è fatta dal Bramantino, l'unico suo esempio d'architettura al mondo, non è incredibile, è importante perché riprende Brunelleschi e per testimoniare la pace di Lodi, quindi finalmente i Medici, il più grande banco europeo del tempo, che si unisce alla città capitalisticamente più avanzata. Questo è sempre il connubio perfetto di questa pace. Questa è bellissima, è in Sant'Eustorgio, è la cappella Portinari. Bravo, Portinari. Tigello Portinari era rappresentante del Banco Mediceo a Milano, è fatta con gli affreschi del Foppa. Il Foppa non fu molto cagata ai tempi, fu riscoperto dopo, scoprendo Caravaggio, ma è uno dei primi pittori del Rinascimento lombardo a portare le ricerche di Mantegna di Padova in Italia, ben prima della cultura di Firenze. E stilisticamente richiama sempre Brunelleschi, quindi è il momento di pace. Questo è quel poco che rimane del Castello Sforzesco. Castello Sforzesco noi oggi lo vediamo molto bello, ma nel 600 i milanesi lo invidiavano perché c'erano dei tacchini grassissimi, era una grande fattoria, fu poi ricostruito. La torre del Filarete era un deposito di armi, un'idea geniale del fascismo, esplose e venne rifatta da Luca Beltrami. Quel poco che c'è di Castello Sforzesco, che è fatto da Francesco Sforza e prima era castello di Portagiova, è la sala delle assi fatta da Leonardo, e questo è Argo in un'altra sala. Dunque questo di per sé non ha questa iconografia incredibile fatta da Bramantino. Quello che stupisce è che non si riesce a distinguere qual è la parte strutturale reale marmorea e qual è la parte pittorica, esattamente come San Satiro, questo gioco incredibile di prospettiva sapiente. La sala del tesoro, delle assi o sala del tesoro, nell'economia mercantilista ognuno, ogni potere faceva combaciare una propria come punti PIL, un proprio potere economico, la quantità di oro che aveva. Quindi avevano queste bellissime sale piene di lingotti e dobloni. E Leonardo fece questo soffitto con gli intrecci di Moroni, in Lombardo, che è le more del gelso. Il nome il Moro non si sa se sia dato o no da Leonardo per la sua carnagione scura, se neanche, non si sa nulla di certo, proprio perché è precario. Però era emblematico che Milano, grazie all'economia del gesso portato da Ludovico il Moro, era importantissima a livello europeo per la seta, e anche per questo si raggiunse il massimo della popolazione. E sino al 1830 l'Italia insieme alla Cina erano i secondi esportatori al mondo di seta. Un po' per la Lombardia con i gelsi, un po' va riconosciuto la zona di Caserta, che chiaramente i Savoia hanno tolto tutti i setifici portati al nord. Questa è l'Aca Grande, appunto, di Francesco Sforza. L'Aca Grande venne inaugurata nel 1460 il 25 marzo. Era una data emblematica, e fino a non molti decenni fa si faceva la festa a Milano nell'Aca Grande, dove venivano, era il giorno della Madonna, non so, dell'Immacolata. Non è la famosa festa del perdono? È la festa del perdono, dove venivano esposti i più 300 quadri che ci sono all'interno e venivano esposti fuori. L'Aca Grande non è il primo ospedale d'Europa, il primo è a Bonn in Borgogna, poi ci fu Santa Maria, non mi ricordo, a Firenze e a Siena, ma è il primo ospedale moderno che aveva un'igiene, un senso dell'igiene moderno, con delle fognature perfette, ed è stata fatta grazie all'intuito del Filarete, anche se fu poi purtroppo scacciato dal Solari, dall'Amedeo, che erano quei pochi architetti lombardi rinascimentali che ricostruiscono il mattoni come era il romanico, che è molto bello. Era diviso in sistemi economici nei vari chiostri, c'era la produzione della legnaia, delle erbe medicinali, sotto c'erano tutti i morti. Ci sono ancora le cripte con i disegni dei teschi. A un certo punto divennero troppi, poi per regi decreti come Napoleone, beh, quello dopo però, venne fatta la rotonda della Besana da Besana nel 600 per mettere un po' di morti là. Questa fino al fascismo era ospedale, poi divenne università. Me lascio i commenti. Questa è Santa Maria delle Grazie, e straordinaria emblema dell'amicizia di Leonardo e Bramante, che fanno 2000 progetti raccontati dall'Omazzo, noi non sappiamo se ci fossero o no, per mantenere il vecchio impianto e fare questa bellissima groviglio di più absidi sul corpo centrale che c'era già. Ludovico il Moro verso la fine era sempre qui, perché gli muore la moglie che era qui sepolta e non si occupa più della parte di Milano, entra in depressione totale. Colgo l'occasione sempre per ribadire che lo Stato francese ci deve 500 opere, qui dentro c'era un'incoronazione di spine di Tiziano. Tiziano sappiamo tutto, sappiamo addirittura quanto investiva nel legname, perché era tagliato per gli affari. A me non piace perché è un pittore completamente borghese, è moderno ma non ha più nulla dell'universalismo né cristiano né dell'intelletto rinascimentale. Comunque sappiamo tutto tranne quando sta a Milano, e qui c'è il Gaudenzio Ferrari, un San Pietro del 1543 a Lione, e di Tiziano che è al Louvre. Sarebbe importante riaverlo. Davanti c'è il refettorio col cenacolo degli anni 90 di Leonardo. Leonardo per me a Milano è dove diventa più libero, infatti crea il codice atlantico, perché è libero di girare il territorio, scopre l'acqua, va a scoprire anche le rocce. Poi ci sono, su Leonardo si può dire qualsiasi cosa, come ogni grande, poi ci sono, c'è chi la dice più diversa dell'altro. Per esempio c'è un'idea per cui a ogni apostolo corrisponderebbe un minerale da lui scoperto, con delle proprietà per i tempi legato ai colori. Quello è la cosa importante, è il realismo. Lui fa questa cosa in fretta con nuova tecnica, infatti dopo 4 anni e mezzo già viene via l'intona. Però è straordinario la sua ricerca dell'inconscio, che è molto più avanguardistico di tutte le avanguardie del Novecento, perché il vero avanguardista non si definisce mai tale. E sono i moti dell'anima, portare fuori l'inconscio, vale a dire la parola di Cristo arriva in maniera diversa a seconda della distanza di ogni persona. E quindi questi sono ancora intenti a parlare, stanno per capire, c'è chi già si scandalizza. Questo è un esempio del realismo di Leonardo. Tutte queste ricerche che fece nella sua vita le porta avanti a Milano, perché era più libero della ricerca. Queste sono le due amanti del Moro. Il Moro sbagliò completamente nell'innamorarsi i tempi, perché si sposò con non Isabella, la sorella di Isabella. Puoi dire qualunque nome. Beatrice, no, beh, il nome Beatrice è per questo che poi. Si sposò con Beatrice. In realtà era perdutamente innamorato della Cecilia Gallerani. I Gallerani erano una famiglia nobile importante a Milano. Quale delle due è Cecilia Gallerani? Questa con l'Ermellino, che in realtà non è un Ermellino. I Gallerani era. Non spoilerare. Per me è un furetto albino, che vuol dire quanto Leonardo era realista e quanto il Mora amasse la caccia. La e, tra l'altro, Ermellino dal greco gallè, quindi sarebbe Gallerani, il Moro insignito dall'ordine dell'Ermellino. Ma il punto è che Leonardo amava la natura e fece un furetto albino da caccia. Anche gli occhi rossi, quindi albino. Ha gli occhi rossi? Sì. La Gallerani, i Gallerani erano molto importanti a Milano, facevano la parte burocratica, e il Moro si innamora completamente dalla Gallerani. Da un punto di vista politico doveva sposare Beatrice d'Este, perché gli Este Ferrara è un gioiello, ma continua a rinviare il matrimonio. La terza volta, a un certo punto, aveva anche pagato per averlo e quindi deve sposarsi. Si sposa, Beatrice d'Este, che era intelligentissima, riconosce il loro amore e la fa cacciare perché ha un figlio, però gli regala un feudo bellissimo nella zona di Cremona, che non mi ricordo come si chiama, che vorrei andare a vedere, che i miei amici stronzi non mi portano a Cremona, voglio fare una vacanza a Cremona da tempo. E Beatrice e la Gallerani continuò in questa sua corte a ricreare un piccolo rinascimento, a scrivere poesie, nulla comunque ci rimane di tutto questo. E questa in Polonia saltò fuori per caso, dato che a Milano nulla lascia traccia, saltò fuori per caso nel Settecento in Polonia e lì rimane adorata da un nazista, da Frank, che era il governatore della zona della Polonia e che riuscì a non darla né a Goebbels, che aveva una bella collezione, né a Hitler, perché la voleva lui, bellissima. La cosa incredibile è che per me è stata fatta con la tecnica della camera oscura, che era l'antenato della fotografia. Leonardo già la usava, ma questa è proprio emblematica del suo sguardo e dovrebbe guardare il suo amato Moro, quindi neanche dà lo sguardo allo spettatore, e l'ermellino invece in maniera animalesca, il furetto è più ritratto diverso, è meno plateare di Liaca. Quest'altra è la Belle Ferronnière, Ferronnière è questo gioiello sulla fronte perché era usato dalla moglie di Francesco, no, di Luigi XII d'Orléans. Era un'altra sua amante, ma non contava tanto, era l'aiutante di Beatrice d'Este, lei lì ci rimase malissimo, infatti verso la fine non andavano bene le cose tra i due, lei muore di parto dopo che scopre questa tresca, e il Moro lì capisce che era realmente innamorato di Beatrice d'Este e non governa più Milano e va sempre a trovarla morta. Ah, a Santa Maria delle Grazie, che era quello che dicevo sì. Prima. Beatrice d'Este però era un genio, suo padre fece un capolavoro con le due figlie, perché Isabella andò da Francesco Gonzaga e chiamò tutti i più grandi artisti a corte. Beatrice d'Este invece riuscì più volte a cacciare i francesi, che erano imparentati grazie ai Visconti con Milano, che cercavano sempre di avere il potere, quindi non riconoscevano Ludovico il Moro, perché uccise suo fratello e sua moglie, quindi c'era sempre quella tirannide per la precarietà. Il genio Beatrice d'Este fu il Moro, addirittura ogni tanto si dice che avesse il Parkinson per la paura quando arrivano i francesi, come Stalin quando arrivò Hitler, che per due settimane non uscì dalla dacia, e fu lei a salvare Milano. Morta lei, il Moro non riuscì più. Diciamo che il Moro politicamente sì, ma da un punto di vista bellico era meglio Francesco Sforza. Questa è una delle versioni della Vergine delle Rocce, chiaramente essendo a Milano nulla si sa realmente su dove dovesse andare. Si pensa nella chiesa di San Francesco Grande, che nell'Ottocento si è ben pensato di abbattere questa chiesa bellissima, che era dove oggi sorge la caserma Garibaldi fuori dalla Cattolica. Doveva andare lì, oppure doveva andare in la chiesa per i malati di Gotta, la più antica dei Visconti, San Gottardo, che è dietro Palazzo Reale. Palazzo Reale era il potere, medievale, era il broletto vecchio. Nel 1250 il broletto, che era l'edificio comunale, andò dove c'è Palazzo della Ragione, e lì c'era la corte, sì, prima del castello di Portagiova, dei Visconti, nulla rimane se non il campanile di San Gottardo, forse doveva andare lì. Comunque il punto è che morto Lorenzo Magnifico nel 1902, morto vabbè anche Piola Francesco, il più grande metafisico di tutti i tempi, nel 24-26 finisce la pace italiana, Ludovico il Moro viene imprigionato, finisce gli ultimi suoi anni in carcere in Francia, e tutta questa genialità di Milano, che era stabile, chiaramente svanisce. Leonardo viene trattato come un re ad Amboise, finisce contento le sue notti lì, si porta via, i milanesi lo chiamano un littering quater, perché appunto è Leonardo e i suoi discepoli che si abbeverano da esso, che è il Melzi, il Salai, il Boltafio e Doggiono. Quello che a me interessa di più è il Salai, perché se si prendono le tele del il Salai era un po' una merda, perché era un mezzo ladro, disegnava veramente bene e non amò mai Leonardo, però si innamorò di lui, e rispetto agli altri era almeno meritevole nei confronti del maestro. Addirittura ci sono le lettere che scrive a Isabella d'Este per dirgli: guarda che il mio maestro non sta facendo il ritratto che vuoi per il tuo studiolo, che c'era lì Mantegna e Perugino. E quando Leonardo va in Francia, perché Milano è decaduto il Moro, lo seguì anche il Salai, si portò via le opere, poi le spese, le vendette tutte, e oggi sono al Louvre. Il Salai e, mi sono dimenticato di dire, Leonardo abitavano davanti a Santa Maria delle Grazie, dove c'è uno degli ultimi esempi urbanistici del 400, case regalate da Ludovico il Moro, dove c'è la vigna di Leonardo, che non è altro che un vitigno, pare che sia quello. Vabbè, fanno il vino, non so se è vero, cioè vabbè, a me interessa il Salai perché effettivamente in tutti i suoi disegni i suoi allievi continuarono a riprodurre il maestro sempre le da Colcigno, sempre l'Anna e la Madonna. Il Salai invece riuscì a fare quadri diversi sempre con quel digno bastardo che ebbe anche la Gioconda, e sempre con questo misto tra femmina e uomo. Un'ipotesi è che Salai fosse l'ispiratore di Leonardo in tutte le sue figure maschili e non. Questa saltiamo, quindi abbiamo detto che per me la stabilità è stata sotto Sant'Ambrogio, Francesco Sforza, Lorenzo il Magnifico e il Borromeo. Carlo Borromeo è il santo della Controriforma, è il 600 lombardo. Per tanto tempo si è raccontato che il 600 fu l'epoca buia, che il 600 fu uguale in tutta Italia. Mantova nel 600 non aveva neanche più i soldi per pagare le terre della zona, degli affitti, quindi l'Italia nel 600 era molto povera, tranne Napoli, che era la città più popolosa d'Europa, e fu illuminata nel 600, la zona dei Borboni. Milano invece nel 600 riuscì a salvarsi grazie a Borromeo. Borromeo era un rompicoglioni totale, perché era il santo che presenziò tutti i lavori della Controriforma. La Controriforma, beh, senza farla lunga, se da un lato mise fine a tutte le corruzioni della Chiesa, i preti si sposavano, non c'erano i registri per i battesimi, le suore in clausura avevano dentro la famiglia, vendevano quello che volevano, la Controriforma mette delle regole serie. Dall'altro lato risponde al protestantesimo con un'ortodossia, al posto di avere più progresso. Le streghe non sono bruciate nel 300, nel Medioevo, che fu molto più progressista, ma furono fatte nel 600. Borromeo cercò un po' di redimere la Valtellina bruciando 162 streghe, però è importante, ci sarà riuscito, e da milanese ci stava, perché era da 200 anni che scappava al dominio di Milano la Valtellina. È importante Borromeo perché, nonostante Milano fosse, come si racconta dal Manzoni, in mano a Ferrante, quindi agli spagnoli, e gli spagnoli dopo il 500 erano pieni d'oro ma non avevano una politica vera e quindi continuavano a sperperare, a fare feste rispetto agli austriaci francesi, tuttavia si è visto che Milano nel 600, essendo anche centro poi per via traversa in economia con Trento della Controriforma, era molto ricca, era molto florida. Tanto è vero che quando ci fu la peste, molte zone del lago, specie il triangolo lariano, che è un territorio incredibile, furono conquistate economicamente col 600, vale a dire quello che noi abbiamo oggi di cucina milanese, che non rimane quasi nulla rispetto alle altre città italiane in tradizione, viene fuori nel 600. Il 600 è il secolo del cambiamento, non c'è più la corte rinascimentale, vi è una certa protocapitalismo nelle campagne lombarde. Un esempio, la patata portata, questo non mi ricordo quale storico del, vabbè, la patata portata dagli americani come tubero o il grano turco impiegò un po' a entrare nella dieta. All'inizio era la pianta demoniaca, perché provandola a mangiare non è il massimo. Si dava agli animali. Nel 600 invece salva la povertà. Carlo Borromeo dice: guardate che questo tipo di grano turco è importante, e da lì viene rilanciata la polenta che salvò il Veneto, che non era molto lontano il Veneto ad alcune zone povere della Basilicata nei tempi, e, come condizioni di vita, dico, contadine. Quindi Borromeo riuscì, esattamente come Sant'Ambrogio, a difendere Milano da un punto di vista economico, facendosi garante di una grande arte che a noi rimane, è la Milano manzoniana. Suo nipote Federico Borromeo amava le arti e creò l'Accademia, che è la biblioteca, che è la Fondazione Ambrosiana. Questo dipinto lo fece Caravaggio per Federico Borromeo. 1559-1602-3. Quello prima c'era la statua, è San Carlone ad Arona. Borromeo introdusse i sacri monti, ce ne sono 8 tra Lombardia e Varallo, per me il più bello è Varallo, tra Lombardia e Piemonte. Il sacro monte è ricondurre il pentimento, quindi il peccato, allontanarsi dal protestantesimo, ricreando il Calvario di Cristo. Quindi questa cosa popolare che entra nella tradizione milanese tramite la religione. E per me è per questo che, essendo Milano sempre stata molto precaria, tranne Sant'Ambrogio e San Carlo Borromeo, è un emblema che CL si sia sviluppata per lo più in Brianza e Lombardia e non in altre zone dove c'è più forte l'idea dell'ortodossia. Perché Milano il cristianesimo fu sempre economico, fu sempre politicamente saggio, non fu molto legato ai concili, alle sacre scritture come a Roma o a Napoli, che invece si è molto più credenti lontano dal denaro. Arrivò sempre il Borromeo nel 600 a rilanciare l'economia milanese. Questo fu il San Carlo voluto dal Cerutti, che è il... poi mi viene in mente, comunque... Borromeo elargì un sacco di pittori rilanciando il realismo lombardo, il Crespi, poi il Nuvolone, e questa era la statua più grande del mondo antico, tanto è vero che Eiffel, che venne anche a guardare nel 1863 l'inaugurazione della galleria come metodo ingegneristico per fare la statua della libertà, per fare la Torre Eiffel, per fare la statua della libertà prese questa che era la scultura prima più alta. E oggi ai piedi della Statua della Libertà viene ricordato San Carlo Borromeo. Per gli appestati bisogna dire che mentre gli spagnoli non sapevano cosa fare, tutti scappavano con la peste, San Carlo Borromeo andava, poi c'è sempre tra geografia e realtà storica, comunque per le vie, ad aiutare cospicuamente i milanesi a ristrutturare il lazzaretto e a creare più di 200 abitazioni per gli appestati fuori da Milano. Quindi fu, dove non c'era potere, un potere stabile della Chiesa. Questa è la canasta, si potrebbe dire di tutto. E Caravaggio? Bene, Caravaggio non nacque a Caravaggio, ma nacque a Milano. Si formò sotto Peterzano, che non fu un grandissimo artista, però c'è all'interno della certosa di... quella per entrare a Milano, di Garegnano, e c'è all'interno di San Maurizio, che è la famiglia Luini, è bellissima, e c'è anche lì. Per il resto non si sa quasi nulla di Peterzano come di Caravaggio. Il dubbio è, a un certo punto fa la prima opera di natura morta, è di gusto europeo, perché in Europa la pittura coi protestanti non era più sacra, non c'era universalismo, non c'era grandi concetti dietro intellettuali del Rinascimento, era io mercante ti pago e tu mi fai una roba che voglio, un bel fiore. Il 600 è il secolo del capitalismo in Olanda, si fanno tanto bei tulipani. Non si riesce a capire ancora oggi dal realismo lombardo quanto fosse preso dalla matrice europea e quanto fosse lombardo in sé da Vincenzo Foppa. È chiaro che Leonardo lasciò un segno e venne ripreso da Caravaggio in questo realismo. Questa è una pittrice che a me piace tantissimo, una delle prime oltre a Artemisia Gentileschi, Fede Galizia, ed è straordinaria, scoperta da poco, era di Milano e quindi non si sa praticamente nulla né di lei né del padre, che faceva dei, non mi ricordo cosa, ha delle statuette per San Carlo Borromeo. Fa questa natura morta che sembra di gusto europeo, ma è completamente italiana, è magnifica, sembra quasi Morandi e sembra Caravaggio, ed è fatto due anni o un anno dopo che Caravaggio fa la canasta, e qui è il dubbio su dove si crea questo realismo. Caravaggio fu la base della pittura moderna, fu la base per Velázquez, per Rembrandt e per dare un po' più di bellezza al realismo europeo. L'altro momento dopo Borromeo, dopo Federico Borromeo, per me centrale, è il Q8. Questo però prima c'è una parte storica che può difendere la mia idea, questa invece è più una mia idea politica. E l'ottava triennale. Io con le triennali ho un brutto rapporto, perché non... Credo che molti compassi d'oro siano stati dati più per il momento storico, per il positivismo, che per la realtà bella che hanno sia in architettura che in materia industriale. Invece è particolare l'ottava triennale, perché Milano fu per il 40% bombardata. Noi sappiamo oggi, dopo un po' di indagini, che gli inglesi, Winston Churchill, che adorava Mussolini per molto tempo, operarono dei bombardamenti incendiari mirati a distruggere l'arte di Milano. A Milano furono colpiti tutti i teatri, tutti i musei e quasi nessuna casa popolare o di ringhiera. C'era il sentimento di piegare la patria del fascismo e del Novecento italiano, radendo al suolo la sua memoria. E anche lì Milano non riuscì a rispondere in maniera politica, non c'era una storia pubblica, rispose per i privati. Ci furono degli custodi di musei ingegnosi che portarono via opere inestimabili a carretto la notte, misero dei sacchi di farina intorno al cenacolo, tutto per il privato lombardo, che è meraviglioso, ma non manca la stabilità. In questa Milano bombardata senza più nulla c'è la QT8. QT8 venne malvista dal Corriere fino agli anni 70, che poi capisce la strategia statomafia, non capiva bene la storia. Veniva vista come la triennale proletaria, come una roba sovietica. Nei fatti era il CNL con i più grandi urbanisti europei che provano a disegnare una periferia ideale. Il QT8 è emblematico perché Milano non aveva soldi, l'Italia non aveva soldi. Milano era tutta distrutta, questa è fatta con le macerie, eppure nel QT8 ci sono dei calcoli meravigliosi di relazione tra il numero abitativo e le case, cioè per 100 ettari si danno un tot di persone, con delle case esposte a sud, quindi sempre col sole, quindi spendere meno in materia e avere tanto verde. E questo è incredibile, perché poco dopo, finita l'ottava triennale, cioè era un progetto che doveva andare avanti per 3-4 triennale, arriva la nona, invece si parla di bel arredo, l'ottava è rinchiusa in un piccolo padiglione e finisce lì, e si vede il Gallaratese, che invece è la speculazione di Milano, è lì dove c'era nulla, hanno tirato su come nulla, lì miracolo a Milano, la delle biciclette, eccetera eccetera. Per me un momento saliente fu il 48, che è il momento del neorealismo, dove intellettuali, poi si può giustificare o meno l'impegno, nessuno si dichiarò mai neorealista, però cooperarono per il progresso reale di Milano ed un quartiere che lascia tracce in mezzo a tutta la speculazione che c'è intorno. Fu la prima fognatura pubblica di tutta quella zona lì che non le aveva. Allora, Fede, siamo a 1:20 di discussione, quindi tagliamo in 3 secondi. Andrei alla tagliamo in 3 secondi. Andrei alla conclusione. In 3 secondi, da un punto di vista scientifico, per creare i primi centimetri fertili di suolo ci si impiega all'incirca 500 anni per avere quella ricchezza organica. Noi ogni secondo a Milano, che è la città che più cementifica in Europa, anche se siamo legati alla lista ambientalista, ogni secondo cementifichiamo 5-6 metri quadri. Vale a dire, se noi vogliamo essere pragmatici, azione, meritocrazia, qualsiasi slogan neoliberista che volete, andiamo avanti a uno sviluppo che è completamente cancellazione del paesaggio, delle risorse idrogeologiche, inquinamento, una città che esplode. Milano non ha nessun modello politico, nessun modello economico. Milano sta in piedi perché ancora misura d'uomo rispetto alle grandi altre città dell'Occidente. Ha una produttività incredibile, come la Brianza, che nessun altro dislocamento europeo ha, ma sta in piedi perché ancora misura d'uomo. Non ha una grande idea politica. Vuole essere, si sente Milano che oggi è europea più che italiana, meno ferma, è scappata via oltre l'industrializzazione. Torino rimane ancora nella palta dell'operaismo, della Fiat, non riesce a rilanciarsi. Genova è abbandonata, è ancora portuale e il Mediterraneo non va più tanto. Milano riesce a rilanciarsi, il problema è che non ha nessun rapporto col territorio rispetto alle altre città italiane. Per cui, detto velocemente, ospita 4 delle maggiori marche di moda al mondo, eppure non ha più rapporto col territorio. Se vai a Firenze, il cuoio viene ancora fatto dal territorio, così come la seta. E Milano invece ha una produttività incredibile, ma non riesce a rispondere in maniera civile di progresso ai problemi dell'oggi, come Parigi o come Berlino, che fanno dei piani di cinture verdi, di stop alla cementificazione, perché si rendono conto che a un certo punto tu non hai più suolo fertile per coltivare, è un problema di si alza la temperatura, di estensione della città, di criminalità, è un problema energetico, è un problema che cancellare il territorio è tutto tranne scientifico e tecnologico. Se posso aggiungere due cifre che aveva ricercato a questo proposito, a Milano in 2 anni siamo passati dal biennio 19-20 in cui sono stati cementificati 2,3 ettari, nel biennio successivo sono stati cementificati 18,68 ettari, quindi abbiamo avuto un aumento diciamo di 8 volte del ritmo della cementificazione, il 58% del territorio comunale è completamente asfaltato. Se passiamo invece alla città metropolitana, questa percentuale scende al 32%, tuttavia nel 2022 abbiamo avuto un aumento di 75 ettari di cementificazione. Questo ha delle conseguenze, prima di tutto sulla temperatura, come diceva bene Fede, è stato registrato che fra Milano e le campagne circostanti c'è una differenza di temperatura di 6 gradi d'estate tendenzialmente, ma penso anche non d'estate. E dal punto di vista dell'inquinamento sono andato a sviscerarmi le statistiche della European Environment Agency e fra le maggiori città europee Milano è... Allora, per darvi una visione complessiva, su 344 città europee valutate, Milano è 318esima per la qualità dell'aria. Fra le grandi città, quindi considerando Barcellona, Londra, Parigi e Berlino, che sono le uniche altre città in Europa che presentano la nostra popolazione, è la peggiore per concentrazione di particolato. La concentrazione di particolato a Milano è 19,8, penso si regga, microgrammi per metro cubo di PM2,5, che quindi sono le micropolveri più pericolose, perché sono le più sottili, quelle che rischiano di penetrare più facilmente nei polmoni. Il limite dell'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo. E niente, questo per una botta di ottimismo. È una metafora di Milano, vuole essere moderna ma continua a non avere una stabilità politica, quindi europea è al massimo come privati, come start-up, come produzione, come ricerca, ma non vedo perché non possa continuare a ricreare innovazione e progresso, per esempio ricordandosi che ha un territorio che è la pianura dopo la Mesopotamia più produttiva al mondo, ha un ecosistema, poi ci sono bellissime ricerche che nulla arriva alla politica, che non è politica, è solo apparenza, ma in Regione Lombardia ogni anno fanno delle bellissime conferenze, una di queste era sulla biodiversità del territorio fuori Milano, vale a dire basterebbe aumentare del 20% la biodiversità come una volta era coi gelsi, come filari, come fontanili, cioè portare fuori i corsi d'acqua, ripulirli intorno alle agricolture, che corrisponderebbe mezzo metro che togli, e alzeresti la produttività di quello che hai in maniera incredibile, adesso non mi ricordo i dati, anche come avifauna. Cioè in un momento così di crisi totale, che col settore secondario tu non riesci più a vincere perché tutto il mondo è sviluppato e non è solo la cara vecchia Europa, il terziario che sembra pulito dal nulla, che sembra angelico, continua a basarsi su un secondario che tu non vedi neanche più. Quindi l'idea di creare delle città museo dove tu puoi fare il polo logistico, puoi essere design, puoi essere qualsiasi del terziario quaternario mentre stupri il territorio, non riesce a rispondere ai problemi dell'oggi come Milano ha sempre fatto, seppur privata è sempre riuscita ad avere una soluzione. Accettare lo stato delle cose non è scientifico e da cretini, quindi Milano non ha un modello, è accettare lo stato delle cose, e l'immagine del deserto intorno a Milano non è una cosa così lontana da noi. Tra 30 anni la gran parte della Sicilia sarà desertificata, noi dobbiamo iniziare a lavorare seriamente con le idee, però pensando altrimenti. Continuare a dire ma non ti, cosa ti lamenti lo stato delle cose, prima non c'era nulla, il resto è una merda d'Italia, non va da nessuna parte. Quindi che uno, ci sono poche identità ancora di Milano, se uno vuole renderle, vuole rendersi realmente milanese, dovrebbe riuscire a pensare altrimenti e studiare, lavorare sul territorio senza slogan neoliberistiche. Hanno ammazzato il cristianesimo, il marxismo e l'illuminismo. Per me. Poi ci sarebbe ancora San Siro così, ma basta. Vado, abbiamo. Cioè, non lo so, se avete pazienza, ce ne abbiamo due o tre slide, però non lo so. Se avete domande o cose, Fede è qua per rispondere. Quel palazzo lì dietro si sa qual è? No. Non lo so. No. Alla regia. Non mi viene. È bello. È un po' nel centro di Bello. Nel centro di Bello. Guarda com'era grande. Caso di dare. Ma io ti avevo una domanda invece. Tu prima hai fatto vedere se hai la slide dove si vede la via dell'acqua e poi ad vuoi oggi la il dipinto o il paragone fra oggi e... No, il paragone. Questo. Ma le slide le hai fatte tu. Me lo sono conquistato questo posto. Un applauso anche a lui, perché io gli ho iniziato a parlare. So usare PowerPoint. Io gli ho prego. Io a lui, a Chiello, gli ho sbiascicato questo progetto che avevo, che è sospendo un saggio che è critica della critica dell'arte. Il titolo già non è che ve lo rende molto. Ci sono delle pause in mezzo, però gli ho parlato una notte sbiascicandone. Lui in un giorno e mezzo è riuscito comunque a seguire e a mettere insieme i secoli di Milano, che non è facile. Quindi bravo. Sì. Era un turno, no, sì, allora, quindi diciamo, quando hanno chiuso quelle vie d'acqua, no? Le hanno sotterrate. Ad oggi si parla ogni tanto della possibilità di riaprirle, no? Bravo, ecco, l'altro problema delle vie d'acqua lanciato con l'Expo è stato non andiamo a studiare il territorio, a rilanciare un'economia diversa, è stato, vabbè, riapriamo quei su 11 km di navigli, ne riapriamo 7, non cambiamo i trasporti, l'economia milanese, il problema è che ogni giorno entra 700 persone in 700.000, quindi la Lombardia vive a Milano, che è impensabile come lavoro, non riapriamo tutti, ma riapriamo 7 km, come mettere delle pozze in mezzo alla circonvallazione di acqua. Quell'acqua non dà economia, non dà paesaggio, è una scusa. Quindi per riaprirli realmente bisognerebbe ricreare economia. Oggi si parla di chilometro zero, ma a me non mi sembra così reale arrivare come la Francia o l'Olanda a capire che se hai un corso d'acqua che ti porta una chiatta, una parte agricola da un chilometro, lì c'è un bello scambio culturale. Penso agli scali ferroviari. Se si prende la lista politica di proposte di Parisi e Sala, non sono così diverse, tutte e due promettevano zero cementificazione e fare di tutto negli scali ferroviari, perché sembrano inutili. Invece concepire che ritornino gli scali ferroviari, le merci su treno e su acqua possono dar voce a territori vicini, mi sembra economicamente valido e anche bello. Però appunto è molto complesso e bisognerebbe aprire una discussione, non basta dire io ti apro 4 km di navigli con delle belle conche di zanzare e due bar e tutto il resto te lo cementifico e te lo incanalo in tubature, perché questa era la proposta, cancellare la parte idrogeologica di acqua e chiudere in tubature, che non è una grande alternativa, è una scusa. Ma infatti poi cioè, l'altra cosa è proprio per le vie d'acqua milanesi, per il naviglio per esempio come lo conosciamo, che ha queste lunghe secche discontinue magari. Cioè come si fa a ripensare una mobilità urbana? Questo è un altro problema valido. Per esempio noi a Milano continuiamo ogni 3 mesi a tirare via l'acqua per pulire le sponde. Togliere via l'acqua crea dei problemi incredibili, perché le sponde senza la densità costante di acqua tendono a venire meno. Ripensare anche diversamente la pulizia non sarebbe una cattiva idea. Cioè è una discussione che bisogna fare in maniera però economica e varia, legando il territorio. Continuare a dire, ho sentito gli architetti che mi dicono arriverà la metro fino a Bergamo, che bello, è una visione apocalittica, vuol dire, se noi prendiamo la Lombardia oggi, prendiamo Milano Como, Milano Varese, Milano Lecco, Milano Bergamo, fanno cagare per 50 km, vuol dire morte, e non basta stare bene in società con gli esseri umani a vivere bene, hai bisogno del paesaggio. E oggi questi 50 km di cemento vuol dire che noi vogliamo essere tanto europei, ma in questo siamo ancora italiani, perché in Europa hanno ben capito prima il valore del paesaggio. L'Olanda, che ha una biodiversità pari a zero, non ha nulla, ha dovuto addirittura abbassarsi sotto al mare per vincere, non è che poteva fare due canali e basta. I mulini rimangono perfettamente, l'Olanda può avere la farina a chilometro che può ha, non è che può ha, che può avere. Quindi è pensare in paesaggio in maniera intelligente. Sì, saper distinguere cioè, la propaganda probabilmente da quello che è il discorso reale su cioè che poi il naviglio secondo me non ha per dire non si ferma, il naviglio cioè, volendo cambia. È un pretesto cioè, oppure piuttosto che niente piuttosto, ma piuttosto io invece non farei nulla che per fare una roba che stravolge una cementificata vuota, allora forse è meglio o discuti o non la fai proprio, che non spendi 10.000 miliardi in nulla. Le vie d'acqua solo a Trenno hanno speso 12 milioni di progetti per non fare nulla nei fatti. Doveva essere poi un calà. Per avere l'Expo si è pagato dal consorzio Villoresi, che è un consorzio bellissimo, si è pagato milioni per avere quel tratto di acqua del Villoresi, finito l'Expo c'è questa cementata, non c'è più acqua. È una roba estetica che non dà economia. Non dico che sia facile, ma ho più paura che uno mi dice io ho la soluzione in tasca, tra 3 anni questo piano di investimento statale ti riapriamo il naviglio. Sì, in realtà si è motivato anche quello, ma era tanto che si voleva costruire sopra. Effettivamente gli austriaci, il conca del laghetto dove arrivava il marmo di Candoglio, era diventato una latrina, non era più sostenibile. Anche a Trenno volevano riaprire una via. È il progetto dei 12 milioni spesi, non si è fatto nulla. Alla fine era un canale in cemento, se deve essere così è meglio non farlo, cioè l'acqua deve essere economia. C'è il laghetto sotto il ponte blu. Quello invece è importante, laghetto sotto, io quando l'ho visto ho detto Madonna. Invece poi ho visto che fino all'Ottocento quell'acqua arriva da verso Sesto Calende, da una sorgiva svizzera, non so bene, e è stata fatta con studi per ricreare biodiversità intorno. Effettivamente è pieno di anatre, ci sono due aironi cenerini che svernano lì. Comunque è sì. L'acqua. Sì. E quando l'ho visto ho detto minchia, invece pare che sia acqua pulita, che sei sempre stato e sta creando quest'oasi. Io ci ho lavorato. È un progetto, ragazzi, è un progetto sapiente. È vero. Giusto, bravo. Finito. Vediamo una roba. Però grazie a Pirellone noi abbiamo un falco pellegrino vicino. È vero, l'avevamo anche a San Siro, due, uno è stato investito qualche mese fa. Una femmina. Da una Lamborghini. Scusa, io, Giello.